Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. In che modo l'intelligenza artificiale aiuterà investigatori, forze dell'ordine, esperti della polizia scientifica a valutare la scena di un crimine, a ricercare un criminale, a ricostruire magari un giro di soldi o più in generale un evento criminoso? Ce lo chiediamo in questa puntata di Smart City dedicata a intelligenza artificiale, scienze forensi, e lo facciamo all'indomani del quarto incontro dei gruppi di lavoro della rete Digital Forensic Evidence Analysis via Intelligence System and Practices, il primo in Italia su quattro di questi incontri già avvenuti, il primo, dicevo, dall'avvio di questo progetto che risale al settembre 2018. Di tutto questo parliamo con la professoressa Francesca Lisi del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari, 20 anni di esperienza, di ricerca nel mondo dell'intelligenza artificiale. Buonasera, professoressa Lisi. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto l'intelligenza artificiale già viene utilizzata nel lavoro quotidiano da molti, dal personale che si occupa, chiamiamolo così, di queste vicende. Però c'è un problema di base, cioè può essere che una prova, in qualche modo individuata attraverso tecniche di intelligenza artificiale, non sia accoglibile da un giudice nel dibattimento. Ci spiega dove sta il problema? Il problema sta proprio nel fatto che molte di queste tecniche, penso per esempio alle tecniche di computer vision, cioè di elaborazione delle immagini che ci aiutano per esempio a fare riconoscimento di oggetti ed individui all'interno di un filmato, queste tecniche spesso non sono in grado di fornire una spiegazione dei propri risultati di classificazione delle varie porzioni del filmato, e quindi in assenza di una spiegazione, di una giustificazione, questi elementi non possono costituire una prova accoglibile in sede dibattimentale. Sì, è un problema che è tipico dell'intelligenza artificiale, quello cosiddetto della black box, della scatola nera. Ci dà un risultato, tendenzialmente è giusto, ma non sappiamo spiegare come c'è arrivata questo sistema al risultato. Esattamente. Servono delle tecniche che in qualche modo ricostruiscano il filo logico che è stato seguito, una sorta di ragionamento che la macchina ha fatto per poter arrivare ad una conclusione. Diciamo, per fare un esempio, un sistema di computer vision può riconoscere una persona in un fotogramma, ma quando guardiamo noi quel fotogramma ci sembra sfocato, indistinguibile, e quella prova, se non siamo in grado di spiegare come fa quel sistema a dire che quella persona è proprio quella persona, il giudice non l'accetta, per capirsi. In futuro, invece, all'intelligenza artificiale verrà probabilmente assegnato un compito ancora più complesso, quello di ricostruire, diciamo, interi scenari. Ci spiega? Sì, questo è proprio l'obiettivo ultimo di questo progetto, perché in realtà tecniche di intelligenza artificiale, come dicevamo, sono già ampiamente utilizzate da chi fa investigazioni scientifiche. Il punto è che queste tecniche ci consentono di avere degli elementi che però continuano a essere frammentati, separati fra di loro. Quindi la vera sfida è quella di ricostruire, aggregare scenari complessi, ricostruendo tutto i nessi temporali, i nessi spaziali, i nessi causali, le possibili alternative, tutto questo ovviamente facendo i conti con l'incertezza e l'imprecisione che caratterizza tutta la realtà che ci circonda. Ecco, oggi tutto questo lavoro è affidato all'intuito, diciamo, dell'investigatore. Sì. Oggigiorno, soprattutto per i casi più complessi, il carico di lavoro su questi esperti di investigazioni scientifiche è veramente elevato. Io ho avuto modo di conoscerne alcuni, hanno tutti un curriculum spaventoso, competenze altissime. Sarebbe una cosa davvero buona se nel futuro questi talenti potessero dedicarsi ai casi veramente difficili, invece lasciare la gestione ordinaria di casi più semplici magari a algoritmi di cui fidarsi, chiaramente. Certo. Algoritmi di intelligenza artificiale di cui fidarsi. Che abbiano risolto quel problema che dicevamo di interpretazione. Senta, Non so se ha visto l'ultimo film di Blade Runner, l'investigatore è accompagnato da una sorta di assistente personale sul quale scarica soprattutto le cose un po' noiose, le ricerche e quant'altro. È immaginabile che in futuro investigatori, giudici siano affiancati da una sorta di un'intelligenza artificiale, magari non con le sembianze necessariamente di una bella ragazza, ma insomma, che faccia questo tipo di lavoro? Beh, sì. Direi che è assolutamente plausibile come scenario futuro, anzi le dirò di più, alcuni magistrati di mia conoscenza saluterebbero con grande piacere l'avvento di un assistente a cui delegare la risoluzione di casi di giustizia ordinaria, chiaramente, stiamo parlando dei casi più semplici, in tutto il resto e nei casi più difficili. Questi strumenti potranno sicuramente ridurre di molto i tempi dell'investigazione. Senta, quali sono i rischi di questi scenari, quindi di affidare pezzi, diciamo, del lavoro che oggi viene fatto dagli esseri umani a delle macchine e dei sistemi di intelligenza artificiale? Beh, è chiaro che queste applicazioni sollevano degli altri problemi di natura etica e giuridica a loro volta. In particolare si pensi ai pregiudizi e agli stereotipi, per esempio di genere o di razza, che potrebbero in qualche modo inquinare, no? la computazione fatta da questi algoritmi. Ciò è dovuto al fatto che questi algoritmi spesso, soprattutto quelli che devono fare classificazione, sono addestrati con dati che a loro volta hanno al loro interno, riflettono questi, certo, questi pregiudizi. Va bene, allora grazie professoressa Lisi. Grazie a voi, è stato un piacere e un saluto a tutti. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a settimana prossima, buon weekend a tutti voi.